Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Do il benvenuto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. La vicenda che andiamo a raccontare è una vicenda particolare. Guarda, ti lascerei proprio così lo spazio di raccontarcela direttamente. Sì, una vicenda incredibile che quando è capitata sopra i nostri tavoli anche noi stentavamo veramente a credere, perché veramente raramente capitano queste cose. E precisamente è capitato che un signore di Treviso, Raffaele Tagliotto, una sera si ferma su un locale per bere un caffè e in quel momento che lui si ferma viene compiuta una retata da parte dei comandi dei carabinieri di Treviso e addirittura ci sono stati degli arresti. Raffaele Tagliotto, che si trovava nel bar, vengono chiesti i documenti e la storia finisce lì. Dopo 7 mesi questa persona riceve una comandata da parte dei carabinieri, i quali gli comunicano di voler procedere ad accertamenti nei suoi confronti e alla revisione della patente, definendolo addirittura un abituale assuntore di sostanze stupefacenti. Quindi questo signore, incredulo e infuriato, ha fatto anche ricorso prima di rivolgersi ai nostri uffici, ha vinto. Il provvedimento di revisione della sua patente è stato annullato, però 4 anni dopo comincia la motorizzazione di Treviso per gli stessi motivi a convocarlo, visto il rapporto della Regione dei Carabinieri Veneto, compagnia di Treviso, il quale risultava che il 25 agosto del 2001 era stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Sì. Chiaramente il signore, che oltretutto vive in America, di conseguenza questa vicenda è costretto ogni anno a venire giù dall'America a sottoporsi a tutti questi accertamenti che gli costa oltre 1.000 euro di biglietto aereo, anche oltre 170 euro di visita medica, quindi fino ad oggi ha speso quasi 10.000 euro. Però è anche disperato perché questo signore si sente trattato come un drogato alla luce di una vicenda di cui mi è assolutamente estraneo e addirittura ha avuto un provvedimento da parte del Tribunale di Roma a suo favore che lo scagiona da ogni dubbio. E addirittura una volta questo signore, di fronte all'ennesima convocazione, si è anche presentato per sottoporsi a tutti gli esami. Sì. Su quella che è stata una convocazione fatta dai carabinieri proprio perché non aveva niente da nascondere. Però magari risulta sempre tutto negativo, magari abbiamo il corso vinto, questo signore non esce più da questo incubo che di fatto lo attanaglia dal 2001 fino ad oggi. Incredibile ma vero, praticamente si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato e lui era lì a bere un caffè e è passato come uno degli abituali frequentatori di questa zona, insomma, dove evidentemente c'era spaccio di sostanze stupefacenti. Sì, ma oltretutto è una vicenda che potrebbe capitare a chiunque di noi. Sì. Una vicenda che ha messo alla luce come la burocrazia e come le istituzioni, in questo caso non sono dalla parte del cittadino, ma tipo quando ti vogliono colpire non si fanno scrupolo a volerlo fare utilizzando tutti i mezzi che hanno, prima quello anche di trattarti da tossicodipendente quando non lo sei. In terzo luogo una vicenda che lo sta portando sull'orlo di crisi di nervi, perché questo signore ogni anno viene giù dall'America per non vedersi stracciata la patente e deve anche sostenersi tutti i costi delle multe e quant'altro, delle visite e quant'altro. Una vicenda che, anche se i tribunali gli hanno dato ragione, non termina a volersi placare. Adesso i nostri uffici chiaramente hanno acquisito tutto l'incartamento, ha reso noto ai media, come stiamo facendo anche con te, questa vicenda, al fine di fare in modo che qualcuno che sia veramente autorevole possa intervenire e porre definitivamente fine a questa vicenda. Però sicuramente riteniamo che questo signore, essendo vittima a tutti gli effetti, perché è una persona distinta, non ha avuto mai un esame che gli avesse accertato un nulla di sospetto, una persona che lavora, che risiede, ha sempre pagato regolarmente tutte le sue tasse a Treviso e quant'altro, che si è anche sottoposto a tutti gli esami per dimostrare che non ha niente, veramente a questo punto è ora veramente di presentare un conto a qualcuno e fare in modo che qualcuno veramente paghi per tutti i disagi che ha e che sta continuando a sostenere. Da ultimo, l'ultima convocazione che è fissata per il 16 dicembre, che che è in ordine temporale l'ultima per quanto riguarda il 2014, e ricordiamo una vicenda iniziata nel 2001. Sì, è incredibile, siamo vittime della burocrazia e ormai ce la ritroviamo dappertutto, ovunque. In questo caso sto ridendo, ma sarebbe la cosa giusta sarebbe mettersi a piangere. Beh, noi non lo faremo, ma anzi alzeremo la voce, alzeremo i toni, perché bisogna veramente che queste cose debbano sparire completamente, non possono esistere vicende di questo genere. Quindi grazie all'Adico che ce le racconta. Assolutamente dovete tenerci informati anche noi di Blu Radio Veneto, i nostri ascoltatori. Quindi lasciamo passare un po' di tempo e poi torniamo pure su questo argomento, Carlo. Sì, certamente Francesco, perché grazie anche al vostro lavoro e appunto che, come detto, queste vicende non solo devono finire, non devono neanche mai iniziare, ed è scandaloso come un sistema, quando decide di perseguitarti senza che tu abbia fatto nulla, si accanisce senza esclusione di colpi. Io dico veramente, penso anche chi lavora sulle aziende private, chi lavora come te, è inaudito che quando una persona sbaglia non debba pagare nei confronti di un utente che è rimasto vittima di un disservizio. E ritengo ancora più indecente che questa persona ad oggi abbia speso oltre 10.000 euro tra visite e viaggi, e ricordiamoci che è andato anche a Roma e ha vinto anche una causa che lo scagiona. Però il sistema non basta neanche questo, è veramente una cosa che devo anche stare attento a pesare i termini adatti per descriverla, perché l'istinto mi porterebbe a utilizzare dei termini molto più colorati. Va bene, va bene. Carlo, io intanto ti ringrazio, ricordo l'associazione difesaconsumatori.it, che è il vostro sito dove raccontate le vicende che vi capitano, quelle più interessanti, quelle belle anche da raccontare. Certe volte raccontiamo delle cose che finiscono bene, speriamo che sia la stessa cosa anche per questa vicenda, per questo trevigiano che è anche giovane, ha appena 42 anni, ma da 9 sta combattendo per questa vicenda. Grazie allora e buona giornata. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.